Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla puntata numero 9 qui a tavola con Fabiola e io sono Fabiola. La ricetta che vi presenterò stasera è appetizer di formaggi. Ingredienti: formaggi vari, ad esempio Asiago, Emmental, Fontina, Rapanelli, lattuga romana ed erba cipollina. Per condire, olio di oliva extravergine, il succo di un limone, erbe fini, ad esempio prezzemolo, basilico, dragoncello e cerfoglio, sale e pepe quanto basta. Preparazione: private i formaggi dalla crosta e tagliate a dadini la fontina, tagliate a fetti sottili l'asiago e a losange l'emmental. Spuntate i rapanelli, lavateli ed asciugateli, tagliateli a rondelle e a listarelle sottili. Mondate la lattuga e lavatela sotto acqua corrente. Scolatela ed asciugatela, dopodiché tagliatela a listarelle. Lavate l'erba cipollina, asciugatela e tritatela finemente. Disponete in una insalatiera la lattuga, i formaggi, i rapanelli e l'erba cipollina. Mettete in una ciotola un pizzico di sale e pepe. Aggiungete un succo di limone e mescolate fino a quando il sale sarà completamente sciolto. Aggiungete l'olio ed emulsionate la salsa con la forchetta. Lavate le erbe fini, asciugatele e tritatele. Unitele alla salsa preparata ed amalgamatele. Condite l'insalata con la salsa e servitela subito. Buon appetito! Vini consigliati: Tokaj dell'Isonzo e Cerveteri Bianco, e serviteli a 9 gradi centigradi. Questa era la ricetta numero 9 di A Tavola con Fabiola. Io sono Fabiola e vi do l'appuntamento alla prossima ricetta qui a Radio Big World.